Mi dica solo una cosa per concludere, Giovanni Tamburi, lei comprerebbe quote in Parmalat, cioè entrerebbe in una cordata italiana in Parmalat? Assolutamente sì, abbiamo già fatto presente anche a Intesa che nell'ambito di un progetto serio e credibile sul piano industriale, per cui non un salvataggio all'italiana per il gusto di mantenere la bandierina, ma in un progetto industriale serio, come in tanti altri casi noi ci siamo, anzi nel caso Prysmian siamo stati gli unici e i soli che hanno speso 140 milioni di euro in poche settimane per tenere in Italia la ex Pirelli Cavi, cioè una delle più belle aziende italiane. Per cui quanto sarebbe disposto a metterci in Parmalat? Beh, io innanzitutto sono un manager e non sono padrone a casa mia, però quando ci siamo voluti mobilitare su Prysmian abbiamo messo sul piatto di Goldman Sachs 350 milioni di euro in poche settimane. Per cui credo che la potenza non tanto della TIP come nostra società, quanto delle grandi famiglie che sono e degli investitori istituzionali che sono insieme a noi ci possa consentire un investimento anche molto corposo. Della stessa ammontare sui 350, secondo lei si potrebbero raccogliere? Ma su un progetto serio, secondo me sì, cioè i soldi non mancano in Italia, di famiglie molto ricche, di family office disposti a investire in progetti seri, lo stiamo vedendo con Rinascente, noi in questo momento stiamo mettendo su una cordata su Rinascente, tra l'altro se non la prendiamo noi la prendono dei thailandesi, il che non sarebbe il massimo, e noi già oggi abbiamo più soldi disponibili che necessità per comprare la società. Grazie, quindi ci ha fatto capire anche chiaramente fino a che ammontare, quale potrebbe essere un ammontare più o meno realistico di fronte a un progetto industriale serio che Intesa San Paolo sta cercando di, attorno a cui Intesa San Paolo sta cercando di aggregare vari soggetti. Grazie a Giovanni Tamburi, presidente della TIP. Buona serata, grazie a tutti voi.